per le romane vergini tu ancora vanno figlia o vitellia, e per le spose vada Serviglia. A Diaco in sugli altari altre portino il piede, altre stendo la mano, e al numi un nome accosto io mol lontano. Te che sento? Vitellia, giurare anche ricusa. In mantinente parta dal suo romano chi tiene al malatia. E in questo punto, sciolto col figlio Magno, il vicino Emeneo, seco non porta dal ciel di Roma in nome di consorte. Questi sarà di morte. Ma Vitellia tu ancora, rubella della patria, latina ti dichiari, di la cagione. Taci e nulla rispondi. Il saprà Tito, il saprà Roma. Lucio, ne regi alberghi la tua fede, darem l'onor con degno. Tu al mio sguardo t'invola, tu al mio sdegno. Di fortuna crudel son fatta segno.